Dal 1999 il riconoscimento premia la persona e non più l'uomo dell'anno, ma il concetto non cambia. Il settimanale americano spiega che non si tratta di una valutazione di merito né di un tributo alla popolarità, ma piuttosto il riconoscimento di come va il mondo e di chi lo guida, nel bene e nel male. Lo speciale a lui dedicato, che potete raggiungere attraverso radio24.it, ruota intorno a una lunga intervista indelicata in cui si parla di Kasparov, di repressione, di corruzione, ma anche di Dio e della Russia. Lui, l'uomo che ha appena conquistato il Parlamento e che si è dato continuità pur rinunciando al Cremlino, risponde a tutto, sorride e persino conquista con il suo gelido humor del Baltico, ma soprattutto promette ai russi lavoro e impegno per il futuro del suo paese. Nessuno oserebbe definirlo un predestinato, scrive Time, se non forse per quel nonno cuoco che cucinò per Stalin. Figlio di operai allevato nei ranghi del KGB, nel 2000 ha preso in mano un paese sull'orlo della bancarotta e ha messo in mostra quella determinazione e quella visione strategica che in passato è stata propria di alcuni grandi della storia russa. Insomma, Time dice che non è un giudizio di merito, eppure premiare su una rivista americana l'uomo che sta ridando alla Russia il ruolo di potenza e che si permette di criticare le maggiori scelte della politica estera americana ha tutta l'aria di esserlo. Gigi Donelli, GR24, Il Sole 24 Ore.